wa mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Pronti per il soundcheck, prova del suono di Radio 24, buon pomeriggio da Gegè Telesforo. In questo momento mi trovo in ottima compagnia esattamente nel negozio di dischi e di libri qui all'Auditorium Parco della Musica di Roma. In ottima compagnia, felicissimo di parlare di musica, felicissimo di incontrare uno dei grandi protagonisti della scena musicale italiana nel mondo, eccellente pianista di jazz e non solo di jazz, il piacere di presentarvi il maestro Enrico Pierannunzi. Buon pomeriggio Enrico, benvenuto al soundcheck di Radio 24. Buongiorno a tutti e sono molto contento di essere qui. Parliamo allora, dai. Allora parliamo, intanto siamo in un negozio di dischi. Quando tu entri in un negozio di dischi e anche con molti libri dedicati alla musica, che cosa fai, che cosa vai a cercare? Ma guarda, è curioso in giro e mi stupisco ancora che i negozi ci siano, perché si dicono delle cose strane su questa fase della, diciamo, vendita e diffusione dei dischi e della musica scritta. Io ho anche una vocazione da bibliofilo, perché mi piace appunto, quando vado in giro anche per il mondo, comprare libri, biografie, anche dischi, anche riedizioni di dischi che magari ho in LP e non ho in CD. Come dire, la speranza che ancora tutto questo sogno possa continuare c'è, poi vediamo, stiamo attraversando una fase particolare. La tua passione per la musica e quindi anche questo tuo atteggiamento compulsivo nell'acquisto di libri e di dischi bellissimi arriva dalla tua famiglia, no? Una famiglia che nel DNA ha la passione per la musica. Tuo papà era un bravo chitarrista cantante e tuo fratello un eccellente violinista, quindi tu sei cresciuto in una famiglia dove la musica si respirava a 360 gradi, papà appassionato di jazz, tuo fratello un grande violinista, insomma lì al San Carlo a Napoli, giusto? E quindi ti sei formato ascoltando musica classica e jazz e poi hai fatto una scelta, raccontami un po' come sono andate le cose. In realtà io la scelta non l'ho mai fatta, perché è una storia abbastanza particolare. Tutto comincia quando avevo 5 anni e mezzo, io tornando da, a Roma si dice vado giù, che significa vado a giocare, tornando su un giorno da giù ho trovato un pianoforte, era il 55 e quindi un po' di tempo fa. Mio padre, poi io, anni dopo ovviamente gli ho chiesto perché, e lui ha detto avevo intuito qualcosa, avevo notato delle cose, quindi lui suonava, era un ottimo chitarrista, fra l'altro autore e cantante di canzoni romane molto particolari, ma come hai detto tu, appassionato di jazz. Quindi in casa, una volta arrivato questo pianoforte, la mia vita è stata molto il pianoforte, perché lui mi ha trovato anche la maestrina, e quindi ho cominciato a studiare la musica subito. Io ho cominciato a imparare a scrivere e a leggere la musica prima di andare a scuola e a imparare a leggere e a scrivere l'italiano. E quindi è una cosa abbastanza precoce. Ho cominciato a studiare con questa maestrina, ma nello stesso tempo, ed è qui la particolarità, con lui e con i dischi suoi che erano a casa, che erano sostanzialmente, me ne ricordo tutti perché poi ne sono diventato, oltre che averli consumati fino all'estremo, ne sono diventato anche il custode, erano l'Iconis Lenny Tristano, un paio di Chet Baker, Jerry Mulligan, c'era molto Django Reinhardt perché mio padre era folle per Django, e Parker, Charlie Parker, che poi più avanti sarebbe diventato un po' il mio eroe, almeno durante l'adolescenza è stato il mio eroe assoluto. Proprio il suono di Parker mi entrava nella pancia in una maniera, non la velocità, perché poi insomma sì, molti dicevano la velocità, in realtà era il suono, questa sonorità che era un misto per me di forza, ma anche di estrema fragilità e innocenza. C'era qualcosa di misterioso dentro questa voce. Io invece vorrei andare subito alla musica proponendoti una delle nostre cantanti preferite, e qui andiamo ad ascoltare l'abilità, la passione di Sarah Vaughan in un classico del jazz intitolato All of Me, una registrazione del 1957 con alla batteria un giovanissimo Roy Haynes, al contrabbasso Richard Davis e Jimmy Jones al pianoforte. Questo è il un check di Radio 24 con Enrico Pierannunzi, nostro ospite. Let me with eyes that cry, how can I go on dear without you? You took the part that was my heart, so why not take all of me. La voce di Sarah Vaughan qui al Soundcheck di Radio 24, Enrico Pierannunzi è nostro ospite, parliamo di musica, parliamo della sua musica qui su Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. And yet my heart stood still, though not a single word was spoken. I could tell you knew that unfelt glass prevent, told me so well you knew. I never lived at all until the thrill of that moment when my heart stood still. La voce inimitabile di Chet Baker in un classico, My Heart Stood Still, qui al Soundcheck di Radio 24 con il nostro ospite il maestro Enrico Pierannunzi, felice di aver ascoltato la voce ma anche il suono della tromba con sordina di Chet Baker, perché hai avuto il piacere anche di conoscerlo e di lavorare con lui ormai diversi anni fa. Che ricordo hai di questo colosso del jazz? Ma semplicemente l'incontro con Chet mi ha cambiato radicalmente la vita, nel senso che io quando l'ho incontrato, è stato nel 79, suonavo in maniera debordante, i miei idoli erano McCoy, Tyner, il primo Chick Corea, ovviamente tutta la tradizione nera, Wynton Kelly, Red Garland eccetera, quindi ero un pianista, come dire, piuttosto estroverso. E chiaramente quando è arrivato lui per me fu uno shock, perché io semplicemente fummo chiamati per un concerto, io Del Fra, Riccardo Del Fra e Roberto Gatto ad accompagnarlo, e in quel periodo io dirigevo la parte jazz di una piccola etichetta romana che si chiamava Edipan, e abbastanza sfacciatamente alla fine di questo concerto, che peraltro era stato bellissimo, io ero ovviamente felice, emozionatissimo, perché suonare con Chet era incredibile, gli ho detto: ti andrebbe di registrare un disco con me? Lui ha detto, parlava bene italiano, cioè per varie esperienze che purtroppo tutti conosciamo, aveva avuto modo anche di imparare, mi disse: ci devo pensare. E poi dopo 2 giorni mi ha chiamato, è nato questo primo disco, e lì da lì abbiamo cominciato a suonare spesso. E devo dire, ecco, tu dicevi mi ha cambiato il modo di suonare, l'approccio con la musica, perché? È molto semplice, perché io in quel periodo appunto suonavo piuttosto ritmico armonico, e ovviamente lui aveva questa capacità di inventare su giri armonici triti e ritriti di canzoni notissime, delle melodie ogni volta nuove con pochissime note. Quindi lui è stato lui che mi ha portato, direi, su una, così galleggiando sulla sua poesia, mi ha portato a riscoprire la potenza della melodia, e io da lì poi sono andato a recuperare Bill Evans. Per me è stato un momento decisivo l'incontro e anche gli anni con lui. Ho notato, e la cosa mi ha stupito, che hai registrato a tuo nome quanti album? 70, 80 dischi? Non ho più contati, è un po' come i miei anni, a un certo punto smetti di contarli, e quindi fra 70 e 80. Sì. 70, 80 dischi a tuo nome, concerti in tutto il mondo con alcuni fra i più accreditati musicisti di jazz americani o comunque internazionali, no? Perché il jazz oramai è diventato da anni un linguaggio internazionale, e ultimamente però le sorprese non mancano, ti sei tolto un grande sfizio, quello di andare a New York più o meno, poco meno di un anno fa, aprile del 2013 mi sembra. In realtà questo, io se parli del Vanguard, che appunto è così, è stata una magia incredibile entrarci e suonarci. Io c'ero entrato ovviamente come ascoltatore, ma stavo invece addirittura ci ho registrato, ci ho suonato varie volte. Il disco che però è stato pubblicato live lì è del 2010. Ah, 2010, però poi ci sei tornato e quindi sei ormai un habitué del Village Vanguard, che è un club che ha dato, credo, il piacere a pochi musicisti italiani. Forse sei l'unico musicista italiano. Sì, sono l'unico, degli europei finora, almeno che hanno suonato e registrato lì, sono solo due pianisti, anche questi, stranamente, Michel Petrucciani e Martial Solal. E qui dal Village Vanguard dal vivo, disco nuovissimo appena pubblicato dalla Kame, Enrico Pierannunzi incontra due colossi del jazz contemporaneo come Mark Johnson e Paul Motion, e ho scelto una tua composizione per presentare la tua vena compositiva e il tuo sound agli amici di Radio 24. Il brano si intitola Tales from the Unexpected. Enrico Pierannunzi qui al Soundcheck di Radio 24 live. Soundcheck, il suono della musica. E oggi al nostro soundcheck, la prova del suono di Radio 24, abbiamo come graditissimo ospite il maestro Enrico Pierannunzi. Abbiamo già presentato questa nuova pubblicazione per la Cam Records, album dal vivo registrato al Village Vanguard con la partecipazione di Mark Johnson al contrabbasso e Paul Motion. Ascolteremo in chiusura un'altra traccia tratta da questo bellissimo lavoro di Enrico Pierannunzi. Oramai praticamente non voglio neanche dire quanti anni di musica hai sulle spalle o sotto le dita, no? Visto che suoni il pianoforte ormai da troppi anni, forse, però non sono mai abbastanza. Hai registrato quasi 80 dischi, ma oggi che cosa puoi consigliare a un giovane musicista? Cioè, come si vive da musicista? Che diavolo di lavoro è il nostro? Vabbè, non è un lavoro, questo lo sai, si dice lavoro, a parte che per molti non lo è, perché sai che i lavori sono altri secondo la media delle persone, giustamente o meno non so. Cosa consiglio? Intanto ti dico che io quando faccio per esempio masterclass o incontri con i giovani li chiamo, ma non per scherzo né per ironia, eroi, perché comunque chi decide di suonare e di suonare jazz è comunque un eroe, secondo me. Allora, come si vive da eroe? Cosa suggerire a un eroe? Chi ha deciso veramente di fare della musica la sua vita sa che sarà appunto gioie e dolori, saranno lacrime e sangue, sa che ci dovrà essere una dedizione, questo è quello che io suggerisco, quindi anche una dedizione assoluta, molto innocente, in cui ovviamente sì, la fama sì, ma anche no, nel senso il palcoscenico sì, ma anche no, nel senso che poi la musica ha due dimensioni, cioè quella privata e quella pubblica, e io suggerisco di studiare. Dico una cosa strana, studiare, uno poi può studiare come vuole, lo dico proprio per queste esperienze che tu con molto affetto hai voluto qui raccontare agli ascoltatori di Radio 24, l'America eccetera eccetera. Gli americani studiano. Questi americani con cui io ho suonato e con cui spero di suonare ancora, cioè i vari Mark Johnson, Joey Baron, Chris Potter, eccetera, eccetera, studiano come pazzi gli americani. Allora, il palcoscenico attira, è stupendo perché uno vede le luci, si sente il protagonista dell'universo, ma i signori americani che poi tutti noi amiamo e idolatriamo, dietro questa diciamo voglia di farsi vedere hanno anche una grande preparazione. Quindi io suggerisco di studiare, di essere molto umili, perché la musica è a dir poco infinita. Ecco, e io pure aggiungo, avendo lavorato con loro e avendo vissuto negli Stati Uniti per un po', che non solo studiano tanto e sono molto preparati, ma sono anche rispettosissimi del passato. Ecco, quindi anche per i pianisti contemporanei che invece partono subito da Herbie Hancock o Keith Jarrett o Brad Mehldau, ascoltare Errol Garner fa bene. Direi proprio di sì, comunque la musica bella non ha tempo. Errol Garner, People Will Say We Are In Love, qui al Soundcheck di Radio 24. Enrico Pierannunzi ci ha ricordato che bisogna studiare così come fanno gli americani e bisogna conoscere il passato e essere rispettosi dei grandi maestri, che siano di jazz, rock and roll, musica classica e via dicendo. Noi siamo ai saluti. Enrico, mi dispiace tanto, avrei ancora tante cose da richiederti, ma magari ci vediamo in un'altra occasione quando tornerai dal Village Vanguard, perché so che ci torni fra un po', no? Ci torno fra un po', prima faccio vari giri, tra cui alcuni concerti in Nord Europa con la splendida orchestra della radio danese che suonerà i miei brani, e poi vado di nuovo in questo magico posto, il famoso, diciamo, basement a forma di diamante, che è incredibile, perché tu suoni guardando intorno, cioè sopra il piano, le foto di tutti quelli che ci hanno suonato, registrato, e ti vengono parecchi brividi, per cui devi un attimo, io riabbasso la testa e riparto a suonare, perché è dura come emozione, però è anche esaltante. E ci andrò ad aprile suonando con due meravigliosi musicisti americani, che sono Scott Coley al contrabbasso e Giola Barbera alla batteria. Per seguire i tuoi impegni hai un sito internet da visitare? Il mio sito è www.enricopierannunzi.com, ci sono le news e naturalmente ci sono i prossimi concerti da un lato nella home page, e uno trova tutti gli impegni là. Allora, auguri, in bocca al lupo, e spero di vederti prestissimo per farci un'altra chiacchierata sulla musica e sulla nostra vita, e soprattutto ascoltarti dal vivo. Quindi io lascio tutti gli amici di Radio 24 con una versione live di I'm In You di Thelonious Monk, sempre Enrico Pierannunzi, con i bravissimi Mark Johnson e Paul Motion, ultima pubblicazione per la Cam Records. A tutti voi buon pomeriggio, buona giornata e buona musica da Gegé Telesforo. Check, il suono della musica.